Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente del salvataggio di quattro piccole banche, ma un salvataggio importante perché arriva a poche settimane dall'introduzione a livello europeo, dell'Unione Europea, del cosiddetto bail-in, quindi del nuovo modo in cui pagheranno gli azionisti e non solo in caso di fallimento o meglio ristrutturazione di una banca, e cioè le banche, la ristrutturazione sarà porterà diciamo a perdite ad azionisti e creditori non assicurati fino a un limite massimo dell'8% della passività della banca. Vengono colpiti nell'ordine gli azionisti e poi i titoli subordinati, gli obbligazionisti e i depositi sopra i 100.000 euro di persone fisiche e anche di società. Sono sempre esclusi invece dalle perdite i depositi fino a 100.000 euro, le passività garantite, i cosiddetti covered bonds, e i debiti di dipendenti, i debiti che ha il fisco, gli enti previdenziali, i fornitori, quindi quelli nei confronti della banca. Questo lo dico perché nel frattempo è diventato realtà il salvataggio delle quattro banche commissariate: Cari Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Cari Chieti, 3,6 miliardi di euro interamente a carico del sistema bancario. Ne parleremo in apertura, parleremo anche dell'annuale rapporto della Fondazione Einaudi, del Centro Studi Einaudi, sullo stato dell'economia italiana, prospettive e alla luce anche dell'andamento dell'economia mondiale. Devo dire che quest'anno, visto che lo seguiamo da 7-8 anni, la Fondazione Einaudi e il rapporto Einaudi, è forse il titolo leggermente più ottimista. La ripresa, e se toccasse a noi, con il punto di domanda, contro edizioni molto più scettiche, chiaramente, cito solo quella del 2011, la crisi che non passa, o il 2012 sull'asse di equilibrio. E ne parleremo con il curatore del rapporto, quindi con l'economista Mario De Aglio. Faremo anche un bilancio del settore delle due ruote, a cui spesso, lo dico anche facendo un po' di ammenda, parliamo più del settore delle quattro ruote, però si è conclusa ieri la 73esima edizione di EICMA, che è la rassegna mondiale del motociclismo, con numeri molto alti, un 35% in più di presenze straniere e anche un aumento rispetto all'anno precedente, quindi molto interesse per il settore del ciclo motociclo. L'Italia, forse non tutti lo sanno, ma da sola rappresenta il 53% di tutto il giro d'affari europeo del settore del ciclo e del motociclo, il che vuol dire 15.000 addetti nel nostro paese. 349-238-6666 sia per i vostri sms che per scrivere su WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda la borsa invece, si vedono molti messaggi sui clienti delle banche in questione, adesso vi arriviamo. Dicevo, qualcuno mi chiede: ma se io divido il capitale su più banche? Sì, adesso anche su questo rispondiamo. Sappiamo tutti che la Banca dell'Etruria vedeva il coinvolgimento del papà del ministro Boschi, non c'è problema, lo ricordiamo, nessuno a remore su nulla. Il problema è capire che cosa è successo al di là della polemica che ci fosse dentro il papà del ministro Boschi. Per quello che riguarda la borsa invece, più 0,90% l'indice FTSE MIB, Parigi meno 0,18%, Francoforte invariata, Londra meno 0,20%. L'Italia quindi va meglio delle altre borse europee grazie soprattutto CNH Industrial più 3,58, Prismian più 2,70, Pop Milano più 2,50 come la Pop Emilia Romagna, e Tenaris il 2,16 lo guadagna Unipol, ma anche il Monte dei Paschi e UbiBanca. L'1,80 è il rialzo di Unicredit e di Fiat Chrysler, l'1,5 quello di Luxottica, Eni ed Exor. Fronte opposto invece Moncler meno 2,42%, Terna meno 1,60, Atlantia meno 1,20, Finmeccanica meno 1%. Altre notizie di carattere internazionale. Dalla Russia oggi si apprende che verrà aumentata del 40% la produzione di gas naturale entro il 2035, l'ha detto lo stesso presidente Vladimir Putin, intervenendo in realtà a Teheran, dove c'era un summit dei paesi esportatori di gas. Dell'Argentina sapete, il liberale Mauricio Macri, sindaco di Buenos Aires ed ex presidente della squadra di calcio del Boca Juniors, ha vinto il ballottaggio alle elezioni presidenziali sconfiggendo il candidato peronista Daniel Scioli col 53% dei voti contro il 47%. Finisce così dopo 12 anni l'era Kirchner. Macri ha promesso una soluzione di continuità con le politiche economiche e sociali del governo precedente, ma ha anche detto che vi sarà un cambiamento senza vendette e regolamento di conti. Molti analisti ritengono che il nuovo governo argentino dovrà comunque cambiare l'attuale politica economica e in particolare si aspettano misure più favorevoli ai mercati e agli investimenti esteri, migliorando anche i rapporti sempre abbastanza critici con gli Stati Uniti, e minor legami invece, o non dico in minor rapporti, ma rapporti meno intensi con il resto del Sud America, quello più legato a Chavez e al chavismo, quindi Venezuela, Bolivia, Paraguay e Ecuador. Tra l'altro un'Argentina che dovrebbe guardare molto di più agli Stati Uniti e meno al continente sudamericano, anche per via della recessione, dura recessione che sta colpendo il Brasile. I nostri GR24 vi hanno già raccontato, ma insomma ricordiamolo anche noi, dell'ufficializzazione di quanto da tempo stiamo dicendo: i due colossi del settore farmaceutico, Pfizer, che è quella che ha tra i vari marchi il Viagra, così tutti ci capiamo, e la Allergan, quella che ha prodotto il Botox, che ha il brevetto per il Botox, hanno raggiunto l'intesa per una fusione record da oltre 150 miliardi di dollari, che darà vita al più grosso gruppo farmaceutico per vendite. Pfizer pagherà 11,3 azioni proprie per ogni titolo di Allergan. L'intesa sarà più grande di un'intesa che poco tempo fa abbiamo raccontato, cioè di AB InBev per comprare Sub Miller, ed è la maggiore fuga dall'estero, dicono le agenzie, ma hanno ragione, di una società americana per pagare meno tasse. Che cosa succede infatti? L'accordo è strutturato come una fusione inversa per sfuggire alle norme americane, quindi sarà Allergan formalmente a acquistare Pfizer, e il colosso però che nascerà sarà guidato dal numero uno di Pfizer, Ian Reed, con il storico legato di Allergan, Brent Saunders, numero due. L'intesa dovrebbe chiudersi in 9 mesi dopo che Allergan avrà concluso la vendita della sua divisione di farmaci generici a Teva. Veniamo all'Europa. Il Consiglio dei governatori del Fondo Salva Stati ha sbloccato gli aiuti per la Grecia, quelli che mancavano dell'ultima tranche, quella di agosto, 2 miliardi di euro, dopo che le istituzioni Atene avevano raggiunto un accordo sulle misure da completare per accedere ai fondi, e tra esse anche la riforma della governance delle banche per rilanciare il processo di ricapitalizzazione. E poi veniamo invece a quello che sta capitando non tanto a Bruxelles, vi stanno aggiornando i nostri GR di ora in ora, ma alle possibili conseguenze, ne parleremo anche con Mario De Aglio, sul fronte economico. Oggi il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ha detto che la spesa straordinaria per la sicurezza dovuta all'emergenza terrorismo jihadista dopo l'estate di Parigi potrebbe essere considerata fuori dal patto di stabilità in quanto dovuta a circostanze eccezionali. I think there will be a lot of sympathy. Penso che ci sarà molta partecipazione e solidarietà verso la situazione francese e anche belga. Oggi discuteremo delle bozze delle leggi di bilancio di Francia e Belgio. Entrambi fanno parte della stessa categoria, ossia dei paesi a grandi linee adempienti al patto di stabilità, e quindi non c'è urgenza di decidere oggi. È uno dei casi in cui la Commissione si può esprimere in seguito sulla possibilità di ricorrere alla clausola sugli eventi eccezionali per il bilancio di quest'anno. Ci sono diverse basi su cui può essere concessa la clausola sugli eventi eccezionali per la spesa nel settore sicurezza. Poi bisognerà esaminare il tipo di investimenti, la spesa aggiuntiva che il Belgio o la Francia o qualsiasi altro paese vorrà fare e se c'è interferenza con le regole di bilancio. Ma è veramente troppo presto per dirlo. Vedremo se diventerà una questione importante per questi paesi. Sì, permettetemi la chiosa, ma insomma, se l'emergenza terrorismo e gli attentati di Parigi non rientrano nella condizione delle circostanze eccezionali previste dal patto di stabilità per sforare il deficit, mi chiedo che cosa possa essere considerata una circostanza eccezionale. Non lo so, un uragano, lo sbarco degli alieni, non lo so, perché il mostro di Loch Ness, perché insomma, più eccezionali di quanto sta capitando, è successo a Parigi e anche a Bruxelles, non so cosa possa esservi. Comunque, allora, nel frattempo a Bruxelles le aziende le cui attività sono state colpite dall'allerta al massimo livello, praticamente il semiblocco, della semiparalisi della città, tra venerdì e sabato potranno avvalersi della legge belga sulla disoccupazione temporanea, l'ho reso noto il ministro per il lavoro e l'economia Chris Peters. I lavoratori riceveranno un contributo dallo Stato al posto dello stipendio del datore di lavoro per tutti i giorni che sono stati costretti a restare a casa per il blocco dei trasporti e le altre restrizioni. Il contributo equivale al 65% dello stipendio medio, che in Belgio è calcolato 2.497 euro al mese, per cui non è una cifra, perlomeno in Italia, non è una cifra proprio bassa. Buono invece il dato dell'indice PMI per l'attività dell'area euro, che viaggerebbe ai massimi da 4 anni e mezzo. Per quello che invece l'indice PMI non è l'indice PMI, è l'indice dei direttori dei responsabili d'acquisto, è Purchasing Manager Index, se non ricordo male l'acronimo, e quindi segnala quello che è la valutazione di chi è responsabile dell'acquisto di beni per grandi gruppi, per la GDO, insomma. Ora è un indice molto importante perché ti dà il segnale se l'attività economica stia riprendendo anche sul fronte interno. Va bene in tutta Europa, è salito al 54,4 punti, il dato più alto da maggio del 2001. Va male, e non è un caso, invece in Francia, dove è sceso, contrariamente al resto d'Europa, a 51,3 punti, ai minimi da 3 mesi. In Germania ha accelerato a quasi 55 punti. Che cosa è successo? Insomma, gli attacchi terroristici purtroppo hanno gelato anche attese e intenzioni di acquisto, perlomeno nei responsabili dell'acquisto, per cui non è un caso che appunto in Francia la Francia sia l'unico paese in cui cala. Ancora due notizie, anche se sarebbero un po' di più, diciamo 3 notizie. Per quello che riguarda l'Istat, oggi l'Istat nel rapporto stima una persona su 4 in Italia a rischio povertà e esclusione. Il dato però è invariato, il dato è del 2014 ed è invariato rispetto al 2013, che se uno vuole vederla così è l'unica buona notizia in questo dato, è che non si è aumentato, il 28,3% della popolazione, ripeto. In particolare il 19% è a rischio povertà, l'11% vive in famiglie gravemente deprivate, il 12% vive in famiglia bassa intensità lavorativa. Il numero di famiglie gravemente deprivate, che non sono quelle a rischio povertà ma ci vanno molto vicine, è ai minimi, per fortuna, dal 2011, nel senso che è sceso dal 12,3% del 2013 all'11,6%. In realtà, se poi si scorpora il dato sul rischio povertà, si scopre che è migliorato nel centro-nord, ma soprattutto è calato anche al sud, perché sostanzialmente il 46,4% delle persone a rischio erano il 48% nel 2013, al nord sono il 17%, al centro il 22,8%, mentre al sud c'è stato un leggero miglioramento, è calato, anche se è altissimo, al 46,4%, è calato rispetto all'anno prima. Certo, in un paese dove una famiglia su due percepisce un reddito netto non superiore a 2.000 euro, e i redditi più alti sono quelli del lavoro dipendente, qui c'è il doppio effetto: da un lato che i licenziamenti hanno colpito il settore privato, dall'altro non giriamoci attorno che nel settore autonomo c'è un tasso di evasione alta in questo paese. Quindi, se vai a vedere poi la classifica di chi ha, quanti sono quelli che dichiarano più di 60.000, più di 100.000, stante alle dichiarazioni dei redditi degli autonomi, saremo un paese praticamente a rischio altro che povertà, a rischio paese in via di sviluppo. Allora, nel frattempo, sulle ferrovie dello Stato, dell'ultima notizia che ho da dare, il ministro dei trasporti Graziano Del Rio ha annunciato che è stata avviata la privatizzazione delle ferrovie dello Stato. Ai privati non potrà andare oltre il 40%, è l'avvio del percorso di privatizzazione. Non ha ancora chiarito se la privatizzazione riguarderà Trenitalia o una quota di Rete Ferroviaria Italiana scorporata. È un lavoro che verrà fatto nelle prossime settimane. Per adesso il decreto prevede semplicemente l'avvio del percorso di privatizzazione con alcuni paletti. Il paletto sono che appunto la proprietà della rete rimarrà pubblica, che va garantita l'indipendenza del gestore, anche un'indipendenza societaria rafforzata, che vanno garantiti gli obblighi di servizio pubblico e quindi che vanno garantiti tutti i servizi di pubblica utilità e la piena maggioranza da parte dell'azionariato dello Stato, quindi che il 40% potenzialmente alienabile andrà in mano a azionariato diffuso e a investitori istituzionali. È un avvio di percorso, le modalità, se si quoterà solo Trenitalia o Trenitalia più una quota di RFI scorporata, comunque in ogni caso tutto questo lavoro è un lavoro che verrà fatto nelle prossime settimane. Questo è comunque l'avvio di una direzione che tende a garantire maggiore efficienza, in particolar modo, ovviamente, visto che la rete rimarrà pubblica e sul gestore c'è aperta una discussione per rafforzarne l'indipendenza, un avvio di percorso che riguarda essenzialmente comunque i servizi a mercato, se dovessimo riassumere con uno slogan. Invece ci occupiamo del salvataggio. Mi stanno giustamente criticando, dico giustamente, gli ascoltatori, perché è un salvataggio per le banche in questione, non è un salvataggio per gli obbligazionisti di queste banche, perché se non ricordo male sono quasi 800 i miliardi andati in fumo per i milioni andati in fumo per degli obbligazionisti. 800 miliardi era un po' tanto. I 800 milioni andati in fumo di obbligazionisti che avevano obbligazioni. Cosa vuol dire avere un'obbligazione? Vuol dire prestare soldi con l'obbligo che questi soldi mi verranno ridati indietro con un tasso di interesse. Avevano comprato obbligazioni di questa banca. Mi stanno scrivendo anche alcuni ascoltatori che dicono: guardate che rendevano tanti. Un mio caro amico, parente di un semplice funzionario di Banca Marche, amico di, ha investito su Banca Marche con rese tra il 7 e il 12%, adesso, e mentre io viaggiavo con i miei corporate bancari tra l'1 e il 2%, perché dovrei pagare io il conto della banca del mio amico? Perché cosa è successo? Lo devo raccontare prima di passare la parola a Marco Ferrando. Allora, il Consiglio dei Ministri, convocato in via eccezionale ieri pomeriggio, ha dato il via libera al decreto legge per la risoluzione dei quattro istituti. Il governo dice che il provvedimento consente di dare continuità alle attività creditizie e ai rapporti di lavoro tutelando pienamente i correntisti. Non prevede alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo Nazionale di Risoluzione ed esclude il ricorso al bail-in, cioè quello previsto dall'Unione Europea nel nuovo regolamento, che avrebbe coinvolto non solo gli azionisti, non solo gli obbligazionisti, ma anche quelli che avevano più di 100.000 euro di deposito, cioè fino a 100.000 sei tutelato, dopo no. L'operazione tra l'altro è stata oggetto di un lungo braccio di ferro con l'Unione Europea, perché che ha sempre visto il ricorso al fondo interbancario come una forma di aiuto di Stato. Ieri però il governo ha ottenuto l'ok. Detto quindi, il bicchiere è mezzo pieno perché chi è correntista di Cari Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Cari Chieti non ha visto toccato nulla. Invece il bicchiere è sicuramente mezzo vuoto per chi aveva obbligazioni, perché adesso con Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera Marco. Buonasera. Ricordiamo che cosa è successo a chi aveva azioni e obbligazioni di questi titoli. Sì, diciamo che obbligazionisti, innanzitutto titolari di obbligazioni subordinate. Subordinate, certo. Perché come sappiamo le obbligazioni non covered bond. Esattamente, hanno categorie diverse. L'intervento deciso ieri dal Consiglio dei Ministri e dalla Banca d'Italia, che di fatto è regista dell'operazione in virtù dei nuovi meccanismi, è stato azzerato il capitale sociale, e quindi chi aveva azioni, che dobbiamo dire si erano pesantemente svalutate ed erano illiquide. Perché ha perso tutto. E stesso trattamento per i 780 milioni di obbligazioni subordinate che erano in circolazione. Formalmente questo rischio sulla carta c'era, non a caso tu citavi prima pagavano rendimenti altissimi, però sicuramente un costo molto elevato. Ora, il secondo aspetto è quello che ho letto volutamente, il messaggio dell'ascoltatore, è quello che riguarda comunque chi ha conti correnti in altre banche. Dice: ma perché il sistema bancario deve tirar fuori, quindi anche la mia banca, 3 miliardi e 600 milioni per ricapitalizzare queste quattro banche, che aggiungo io sono 3 miliardi e 600 milioni che non usi per fare prestiti, ammesso che le banche abbiano voglia di fare prestiti alle imprese, cosa su cui ho qualche dubbio, e alle famiglie non per i mutui, sono comunque 3 miliardi e 600 milioni che dreni dalla liquidità del sistema bancario. Sì, dunque, diciamo che chi difende, chi ha pensato questo intervento, lo ha pensato come il male minore, nel senso che l'alternativa sarebbe stata aspettare di fatto sei settimane, l'anno nuovo, con il bail-in, il che avrebbe voluto dire che scattava la nuova procedura, la quale avrebbe difeso sì i depositi fino a 100.000 euro, quindi se io avevo 101.000 euro, 1.000 euro li avrei persi comunque, ma avrebbe evidentemente esposto tutta una serie di altre categorie, tutti gli obbligazionisti e i depositi al di sopra. Non solo, ma nel caso in cui i beni della banca, quei pochi che rimanevano, non sarebbero stati sufficienti a coprire, a tutelare i depositi sotto i 100.000 euro, comunque avrebbero dovuto poi intervenire le banche sane. Quindi, facendo due conti, così il costo è certo ed è di 3,6 miliardi, arrivare al bail-in avrebbe, come dire, aperto una procedura dal costo incerto potenzialmente anche superiore. Quindi è vero che tutti coloro che hanno rapporti con le banche sane pagano oggi, il rischio però, chi può dirlo, non è un giudizio, è una constatazione, avrebbe potuto essere superiore l'anno prossimo. Quindi tu hai usato il termine secondo me più corretto, il male minore, perché altrimenti aspettavi il primo di gennaio, quando, ripeto, per tutti scatterà il bail-in a livello di area euro, e quindi gli azionisti sarebbero stati colpiti in maniera identica, gli obbligazionisti subordinati in maniera identica, ma avresti aggiunto anche le obbligazioni non garantite e tutte le passività ammissibili, più tutta la parte che eccede i 100.000 euro del conto corrente. Ora, immaginando che in Banca Marche e in Cari Ferrara, in Banca Etruria e Cari Chieti vi sia chi ha più di 100.000 euro, magari ne hai 130, magari ne hai 180, magari hai avuto anche dei lasciti, insomma ragazzi, ragionare su un patrimonio anche di 200.000 euro, che è buona cosa, è buono, ma non stiamo parlando dei milionari di questo paese, magari uno li ha come risparmi di una vita, e ti vedi sfumare su 200.000 euro, 100.000 euro, così da un colpo all'altro, almeno possiamo dire che l'obbligazionista aveva investito con un alto rendimento, sapendo che quell'alto rendimento si giustificava con un alto rischio, un po' come l'obbligazione argentina. Non sto dicendo che l'obbligazionista sia la stessa cosa dell'azionista, però insomma che un principio di maggiore consapevolezza c'era rispetto a chi magari non aveva comprato nessuna azione, nessuna obbligazione, aveva solo depositato lì i soldi e si vede sparire metà del suo capitale, ossia o più di metà, tutta la parte eccedente 100.000 euro nel conto corrente. Obiettivamente si è scelto il male minore. Detto questo, dopo la pubblicità e il meteo, ricordiamo anche queste quattro banchette, perché banchette, lo dico per come, non per offesa, ma per come sono state gestite in maniera scellerata dai loro vertici, di cui il papà del ministro Boschi era vicepresidente, si è dimesso, della Banca Popolare dell'Etruria. Il ministro Boschi, lo dico per informazione, completezza di informazione, non ha partecipato al Consiglio dei Ministri di ieri per un ovvio conflitto di interessi eventuale. Però dopo il meteo e la pubblicità ragioniamo anche di come si è arrivati, perché il commissariamento di queste banche è partito sostanzialmente 2 anni e mezzo fa e 9 mesi fa l'ultima. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. minuti. Allora, stiamo ragionando di quello che è successo alle quattro banche e di quello che succederà dal 1 gennaio. Non faremo solo questa puntata sul bail-in o bail-in, ma il bail-in è quello che tutti gli ascoltatori citano come, perché in effetti un po' una fregatura, è il modello Cipro, ossia pagheranno anche i correntisti sopra i 100.000 euro. Due risposte le devo dare velocemente, però. Che cosa succede se uno ha 400.000 euro e li spalma su quattro banche da 100.000? Niente, nel senso che puoi farlo, perché è il singolo correntista di ogni singola banca che è tutelato fino a 100.000. Quindi la prima risposta è chiaro che ti conviene, con grande vantaggio forse alle banche, spalmare se ritieni che la banca sia a rischio. Ragazzi, adesso io di ristrutturazione bancaria, a parte due banche, insomma forse Veneto Banca e Popolare di Vicenza, di cui adesso parlerò, non ne vedo. Però, secondo aspetto, se il conto è cointestato, marito e moglie, madre, figlio, quello che è, vale doppio, cioè il tuo conto corrente è tutelato fino a 200.000 euro, okay? Per cui o lo cointesti fino a 200.000 o lo splitti lo spalmi su vari conti correnti, o se ne hai veramente tanto li cointesti su tanti conti correnti, per cui hai 200.000 per 5, 6, 7 banche e sono tutelati. Popolare di Vicenza, ci sono novità in corso al Consiglio di Amministrazione, ma comunque dovrebbero arrivare le dimissioni del presidente Gianni Zonin. Il posto di Zonin dovrebbe essere preso dal vicepresidente Confindustria Stefano Dolcetta, mentre il cambio ai vertici è già stato fatto. Resterebbe Iorio per quello che riguarda Popolare di Vicenza come amministratore delegato. Per quello che riguarda invece Banca Marche, o Nuova Banca Marche come si chiama adesso, l'amministratore delegato designato da Banca d'Italia, visto che era commissariata, è l'attuale direttore generale di Banca Marche, Luciano Goffi, che era arrivato dopo lo scoppio dello scandalo, non faceva parte, ci mancherebbe, della precedente gestione. Il presidente di Nuova Banca Marche e degli altri tre istituti collegati sarà Roberto Nicastro, designato ex direttore generale di Unicredit, ha capitale per 1 miliardo e dice che il monte sofferenza è coperto per oltre l'80%, ha molte riserve, le prime dichiarazioni di Nicastro e di Goffi. Ora, come si era arrivati alla gestione di queste banche, Marco Ferrando, e ricordando che comunque il costo ci sarà, perché 3 miliardi e 600 milioni sono una buona fetta del fondo che le banche hanno per aiutarsi vicenda. Sì, non solo, sono addirittura 5 annualità del fondo, quella 2015 e l'anticipo di 4 annualità, il che anche porta a un'altra considerazione, cioè speriamo che di qui ai prossimi 4 anni non ci sia da salvare nessuno, perché di fatto il salvadanaio sarà vuoto. Come ci si è arrivati? Beh, sono storie lunghe che spesso vanno avanti, vanno indietro di molti anni. Posso dare un titolo io? Sì. La gestione è stata talmente pessima che si è preferito dare prestiti, soldi, crediti non alle imprese sane, non a chi lo chiedeva, ma agli amici degli amici. Questo ha fatto sì che poi, quando è esplosa la crisi, questi prestiti sono andati subito in sofferenza, perché un conto è finché cresci come banca, e ognuno con i suoi singoli casi. Però voglio dire, tra le Marche e Genova non è che ho visto tutta questa differenza. Veneto Banca e Popolare di Vicenza invece hanno un'altra storia, ma non rientrano nelle quattro categorie, poi vi arriveremo. Però ti ho interrotto, diciamo, prestiti dati sulla base di criteri non bancarie. Sì, infatti hanno in comune il fatto di essere istituti di medie dimensioni, medio-piccole, ma con un forte radicamento territoriale, il che può essere un bene se il radicamento è gestito positivamente, ecco. Perché evidentemente io conosco i miei clienti, so quanta fiducia meritano, ma può essere un male nel momento in cui invece si fa un uso distorto del rapporto di conoscenza, per cui si fanno evidentemente affidamenti spropositati. Non dimentichiamo, in molti casi si tratta di operazioni magari edili, e come sappiamo l'edilizia peraltro ha avuto una crisi anche più grave della del nostro sistema economico, e questo poi diventa evidentemente un circolo vizioso. Non per niente 2 anni di commissariamento per ognuna delle banche, forse solo Chieti ne ha fatto un po' meno di 2 anni, ma poco cambia, o anche Etruria, però il commissariamento non è bastato a rimettere in piedi, a risanare nulla, hai dovuto azzerare, diciamo, rimettere capitale, ecco perché si chiama Nuova Banca Marche. Un ultimo aspetto lo tratterò dopo il traffico e poi andiamo alla borsa, perché anche nel caso di queste quattro banche, come nel caso che abbiamo raccontato di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, e quindi dico cari Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria, cari Chieti, molti ascoltatori stanno segnalando che queste cavolo di obbligazioni subordinate che adesso sono scomparse, che hanno venivano proposte allo sportello della banca, venivano vendute, e lo scrivono anche alcuni dipendenti, guardate che le piazzavamo ai clienti inesperti, meno avvezzi, e anche delle volte, questo è emerso in maniera molto netta in Veneto Banca e Popolare di Vicenza, in quel caso sulle azioni non quotate, ma anche vincolandole, diciamo, a altri fidi, per il mutuo piuttosto che per un altro fido. Ora, questo però non possiamo farlo cadere, perché tu puoi dire che l'obbligazionista sa ed è consapevole che si assume un rischio a differenza del correntista, e che quindi è meglio aver punito gli obbligazionisti rispetto ai correntisti, però non se vengono spacciate le obbligazioni, e uso il termine spacciate, dicendo neanche, perché lo spacciatore ti dice quello che ti vende, in questo caso nemmeno si diceva quello che veniva venduto. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, ultima parte di questa prima approfondimento, ma vedo tantissimi messaggi, quindi continuo, ripeto, se il conto è cointestato raddoppia, sono 200.000 euro, i 100.000 euro di limite dal 1 gennaio per essere tutelati valgono per ogni singola banca, quindi li puoi spalmare su diverse banche. Ma Marco Ferrando, due cose, la prima, il ragionamento sugli obbligazionisti, cioè uno può dire, vabbè, chi comprava obbligazioni argentine a suo tempo con rendimenti tra il 7 e il 9% sapeva che un rendimento alto rendimento aumenta il rischio, poi insomma ha rischiato un po' consapevolmente per ingordigia, per avidità. Ma se io sono cliente o ero cliente di una di queste quattro banche del territorio, tra parentesi, queste vicende assieme a Veneto Banca e Popolare di Vicenza mettono la parola, la pietra tombale su ogni distinzione tra banche popolari grandi e SPA, quindi bene ha fatto il governo, perché a parte le BCC e i crediti cooperativi, queste banche erano vicine al territorio e tanto vicine che se lo sono, diciamo, penetrato, non voglio essere volgare, in maniera molto vicina, e qui questa distinzione antropologica tra le banche popolari che non volevano riformare il regolamento perché loro avevano una missione sul territorio, sì, di metterlo in quel posto come anche altre banche, solo in maniera più locale, ma non mi sembra questa una grande distinzione. Chiusa la parentesi, due ultime domande, Marco. La prima, ripeto, uno va e compra obbligazioni argentine, sa che lo fa anche un po' rischiando per avidità, ma se allo sportello dove ho il conto corrente mi propongo un'obbligazione della banca, cavolo, è un altro discorso, non si può dire che per avidità, e dal 1 gennaio varrà per tutti. Secondo aspetto, cosa succede agli ex vertici? Parto dal secondo, ex vertici, in molti casi ci sono stati processi, in alcuni sono in corso, perché evidentemente ci sono comportamenti penali che evidentemente meritano di essere processati, appunto. Sulla prima questione, diciamo prima la fiducia di cui si è abusata, io vedo nel piazzare questi prodotti due colpe, di chi, ancora una volta degli amministratori che di fatto hanno prolungato una situazione di calma apparente intorno a queste banche, penso a Ferrara, penso a Banca Marche, hanno fatto ancora aumenti di capitale a valori altissimi tre anni fa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi amministratori, oltre a fare i favori agli amici, difendevano il valore del titolo per dare l'idea che tutto andasse bene. Difendevano le loro poltrone. Certo. Difendevano le loro poltrone perché tu sei obiettivamente un criminale da un punto di vista bancario, così chiarisco il termine, perché se tu sai come è messa la banca, sai quali sono le sofferenze, sai i crediti che non puoi più riavere e chiedi un aumento di capitale tre anni fa, cioè chiedi soldi ai tuoi azionisti, sei un criminale, perché chiedere soldi se tu hai un progetto sano, sai, ma se io so che sto fallendo e vado da un mio amico e gli chiedo i soldi, sto qua, giustamente mi aspetta sotto casa dopo, non so se... Cioè, non solo, ma chiedendo tu un aumento a un prezzo che non è inferiore a prima, tu di fatto alimenti la sensazione che la banca vada bene, bravo, quindi... bravo. Autorizzi i tuoi bancari a vendere obbligazioni che sono quelle di cui parlavamo prima, perché se io sono azionista mi si vende un'azione che ha reso fino a ieri perché è stato in grado di staccare un dividendo, me ne viene venduta un'altra addirittura a un valore maggiorato, io non solo penso che quello che ho investito abbia aumentato il suo valore, ma sono invogliato a comprare obbligazioni e poi dopo un attimo scopro che era tutto falso. Sì, e anche chi sta allo sportello dice, ma insomma la banca ha fatto un aumento di capitale a un valore più alto, vuol dire che le cose non vanno male. Eticamente, se posso usare questa parola, anche il dipendente della banca dice, vabbè, ma la banca non va male, fammi vendere le obbligazioni, ha ragione, fammi vendere le obbligazioni. Adesso chiedo in regia se entro la fine di questa puntata, chiedo bene, riusciamo a dare i nomi per favore degli ex vertici, li abbiamo, di Banca Marche, di Cari Ferrara, perché i nomi e i cognomi sono importanti, hanno guadagnato. Allora, i nomi di... mi dicono che me li stanno mandando, mamma che efficienza. Allora, facciamo una cosa, mentre cerco i nomi, ringrazio Marco Ferrando, no, perché i nomi e i cognomi in questo paese vanno dati, non è pubblico ludibrio, non è questo. Ci sono dei processi in corso, banche che sono state salvate, obbligazionisti che hanno perso tutto, azionisti che hanno perso tutto, e vuoi che non faccia i nomi. Grazie intanto a Marco Ferrando. Un primo minuto di borsa e poi il resto della borsa dopo il GR24 più 0,70% Milano, come diceva Marco Ferrando, in effetti oggi la reazione dei titoli bancari a quanto deciso ieri in via straordinaria del Consiglio dei Ministri è stata buona. Popolare Milano più 2,60, Pop Emilia Romagna più 2,40, più 2,30 Monte dei Paschi, più 2% Ubibanca, più 1,70 Unipol, più 1,5 Unicredit, più 1,30 Unipol SAI, e poi di bancario mi manca Intesa San Paolo più 1,1 e il Banco Popolare più 0,30%. Andiamo sui titoli che invece più hanno perso: Moncler meno 2,35, Terna meno 1,80, Atlantia meno 1,80, Finmeccanica meno 1%, Ferragamo meno 0,60, come Mediobanca, Campari mezzo punto percentuale di calo. Euro su dollaro a quota 1,0605. Allora andiamo sul GR24 e poi il commento di borsa, il motociclo e il rapporto della Fondazione Naudi. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te, ce Alessandro, l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa e la giornata di borsa, più 0,70% Milano, dicevamo, i titoli abbiamo già raccontati e da questo punto di vista l'euro su dollaro quota 1,06, mi chiedete l'aggiornamento. Adesso faremo anche i nomi completi per quello che riguarda le quattro banche di cui abbiamo parlato prima. Dicevo, come sempre con Radio Corio Sole 24 Ore, Flavia Carletti, buonasera. Buonasera a tutti. Delle banche abbiamo già detto, abbiamo parlato per quasi la prima ora del programma. Molto bene oggi CNH invece. Sì, è stato uno dei titoli migliori per tutta la seduta, alla fine ha chiuso a più 2,7% e c'è stato soprattutto per questo titolo un recupero perché era stato tra i molto penalizzato nelle ultime sedute e poi il mercato sta aspettando con grande attenzione i risultati che verranno presentati mercoledì della concorrente John Deere, che è una concorrente statunitense, che dovrebbe fornire anche un aggiornamento sulle attese anche per fine anno. E in questo settore già in passato gli analisti aspettano molto i risultati delle varie concorrenti per capire poi come sarà l'andamento del settore e quindi di tutte le aziende del comparto. E poi oggi oltre a CNH è andata bene un po' tutta quella che è la galassia legata a quello che era il gruppo Fiat, Texor. La stessa FCA oggi ha fatto più 1,5%, Exor più 1,13%. Ancora tra i titoli, oltre appunto alla galassia Agnelli, abbiamo visto un po' di recupero sul lusso. Oggi dico, a parte galassia Fiat e banche, non ci sono grandissimi spunti. Tenaris appunto va bene. Diciamo un po' di recupero sul lusso. Tod's porta a casa lo 0,50%, però Moncler male, meno 2,35%, e male anche Ferragamo, meno 0,60%. Sì, esattamente, si sono mosse in maniera diversa perché Tod's oggi c'è stata risentito della notizia di ieri che il gruppo Tod's compra Roger Vivier, che è la società di scarpe francese, da una società che fa sempre capo alla famiglia della Valle. Il corrispettivo per la cessione è di 415 milioni di euro, di cui la metà verranno reinvestiti in un aumento di capitale riservato di Tod's. Il costo dell'operazione è considerato caro da molti analisti, però in qualche modo è considerata a livello strategico un'operazione molto importante per il gruppo, quindi dopo un iniziale quasi meno 3% per Tod's c'è stato un recupero nel corso della seduta, proprio perché comunque si aspettano sviluppi positivi eventuali dall'operazione per il gruppo, mentre invece sì. Moncler e Ferragamo hanno risentito di un report in parte di Barclays sul settore del lusso che ha parlato di possibili effetti negativi a breve da una contrazione del turismo legata agli attentati di Parigi, e poi ci sono un po' di attese su un po' di debolezza sul mercato cinese e questo ha impattato soprattutto su Moncler. Allora, devo dire, non so se si possa collegare al lusso, non penso, ma oggi c'è un debutto, Gambero Rosso, che è la famosa guida sulla cucina e sul vino. Beh, un debutto contrariamente a un settore che va benissimo, vino e alimentare, il debutto è veramente stato un disastro, meno 11,25%, peggior titolo oggi di tutto il listino, a 1,42 euro. E poi ha debuttato su Lime, il Gambero Rosso ha raccolto 7 milioni di euro in fase di collocamento, poi Club meno 7,60, Friendly Energy meno 6,60, fronte opposto, primi sui motori più 12,40, Mertecnimon più 8,30, SES Getters più 8%. Grazie a Flavia Carletti, il Sole 24 Ore. Adesso parliamo del settore del ciclo, del motociclo, prima di arrivare al rapporto della Fondazione Einaudi. Ma vorrei anche leggere, perché l'avevo promesso, i nomi degli ex vertici delle banche che sono costate al sistema bancario 3,6 miliardi per essere salvate e agli obbligazionisti e azionisti tutti i soldi che avevano messo. Allora, Banca Marche, gli azionisti, gli obbligazionisti di Banca Marche devono ringraziare Massimo Bianconi, ex direttore generale, Michele Ambrosini, Lauro Costa, ex presidenti, Piero Valentini, ex presidente del collegio sindacale. Per Banca Etruria gli obbligazionisti e azionisti devono ringraziare Giuseppe Fornasari, presidente fino all'aprile 2014, Luca Bronchi, direttore generale fino all'estate del 2014, Davide Canestri, direttore centrale responsabile del risk management, e è lì che c'era il papà del ministro Boschi, vicepresidente fino all'aprile 2014. Per Cari Ferrara obbligazionisti e azionisti devono ringraziare l'ex direttore generale Giuseppe Grassano e gli ex presidenti Alfredo Santini e Sergio Lenzi. E per Cari Chieti il ringraziamento di obbligazionisti e azionisti va all'ex direttore generale Francesco Di Tizio, all'ex direttore generale Roberto Sbrolli e all'ex presidente della banca Tito Codagnone e all'ex presidente della banca Mario Falconio. Andiamo su qualcosa di più positivo e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di EICMA, Antonello Montante. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, EICMA è la rassegna mondiale del motociclismo, si è conclusa ieri la 73esima edizione, 1400 espositori, più 35% le presenze straniere. Noi da soli facciamo più di metà del mercato europeo del settore ciclo e motociclo. Presidente Montante, che indicazioni sono emerse anche per i prossimi mesi sul fronte del ciclo del motociclo? Guardi, io come battuta in apertura all'inaugurazione della fiera, che non la chiamerò più fiera dall'anno prossimo, ma Parco Esposizione della Moto a livello mondiale, quindi la chiameremo la festa del mondo delle due ruote a Milano. Le dico che è emerso un dato fondamentale, che Milano, l'Italia, su questo settore diventa sempre più internazionale, più 37% gli operatori stranieri, quindi è una di presenza di operatori stranieri, quindi un risultato inatteso, proprio inatteso. Pensavamo una crescita sì, ma in una percentuale molto più bassa. Questa è una cosa che ci fa sperare e, come dicevo poc'anzi, in apertura ho detto finalmente forse l'Italia si può mettere in moto, quindi può partire. O in bici in certi casi. La fiera non era della moto, ma non era della bici, ma della moto. Certo, ma io aggiungo le bici perché sulle due ruote parliamo sempre di scooter, moto, così, ma esistono anche le bici. Comunque, è vero che il settore segnala un aumento degli scooter, soprattutto i 125, e anche le moto oltre i 500? Sì, è vero. Come diceva lei all'inizio, l'Italia rappresenta il 53% del mercato europeo, quindi la percentuale è riferita pure agli scooter e alla cilindrata dei 500 e oltre i 500. E quindi è bene anche appunto le moto più 14%. Un'ultima battuta, presidente Montante, so che è un mercato ancora di nicchia e quant'altro, ma è vero che sono tornate anche le biciclette, quelle che si chiamano a pedalata assistita, cioè bici elettriche, se ho capito bene, però non vorrei dire... Sì, la bici elettrica naturalmente sta tornando con molta forza, naturalmente parliamo di bici elettriche diciamo in qualche maniera sofisticate, quindi a pedalata assistita, che non superano certe velocità perché c'è da superare il problema delle omologazioni, certo. Ma le devo dire che una buona percentuale di ciclisti veri decide o si convince di andare su una bicicletta per pedalata assistita, perché quando un ciclista o un appassionato di biciclette non è allenato, ha bisogno all'inizio un aiutino, quindi è un trend che è sempre in crescita, soprattutto in questa fiera, in questo salone, in questa esposizione della moto si è registrato questo dato. Com'è che lo chiamerete dall'anno prossimo, così me lo ricordo anch'io? Lo chiameremo Parco Esposizione della Moto, significa non fiera, non mercato, ma lo showroom del mondo delle due ruote, quindi qualsiasi azienda a livello mondiale produce una moto e le vuole mettere nello showroom lo porterà a Milano e sarà la fiera che verrà trasformata in Parco Esposizione della Moto, e ci sarà anche la settimana della moto a Milano, come la settimana della moda. Allora sì, in un settore che comunque ha visto le immatricolazioni crescere dell'8,7% quest'anno per le cilindrate superiori ai 50 cc e anche del 6% per gli scooter, quindi insomma i segnali di ripresa lì vi sono. Grazie al presidente di EICMA, Antonello Montante. Traffico. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. ultimo tema di questa puntata, il rapporto Einaudi, il 20° rapporto della Fondazione Einaudi presentato oggi a Milano. Ci ha raggiunto in collegamento il curatore, che è anche docente di economia internazionale all'Università di Torino, Mario De Aglio. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, quest'anno il titolo è La ripresa e se toccasse a noi, punto di domanda. Lo dico perché mentre negli anni scorsi, l'anno scorso fu un disperato bisogno di crescere, fili d'erba, fili di ripresa nel 2013, nel 2012 sull'asse di equilibrio, nel 2011 la crisi che non passa, e quest'anno con un titolo La ripresa e se toccasse a noi, io vedo una doppia lettura. Da un lato che la ripresa c'è, nel senso che anche voi lo usate come termine, come sostantivo dentro il titolo, e il se toccasse a noi vuol dire che ancora da noi non è esattamente una ripresa compiuta. Siamo in una ripresa o siamo economico, o è ancora una fase di rimbalzo dovute anche alle situazioni esterne che spesso raccontiamo, euro debole, petrolio ai minimi e tassi di interesse a zero? Sì, effettivamente noi facciamo questa netta distinzione. Il rimbalzo è qualcosa di quantitativo e basta, cioè si ritorna su di quello che abbiamo non fatto prima, mentre invece la ripresa è una trasformazione di struttura, per cui facciamo delle cose diverse da prima. Al momento attuale siamo in una fase di rimbalzo. Questa fase di rimbalzo potrebbe continuare tranquillamente per 2 o 3 trimestri, dopodiché se mai seguissimo il modello giapponese torniamo giù. La prospettiva è che noi riusciamo a non seguire questo modello di alti e bassi e invece a innescare una nuova fase di ripresa, cioè di trasformazione dell'economia, basata sull'aggancio alle nuove tecnologie e su una domanda interna di cui abbiamo le risorse. Tutto sommato le famiglie italiane nel complesso hanno tanti soldi in banca e continuano a mettere dei soldi in banca anche a tassi zero sui BOT, mentre invece potrebbero anche decidere di spenderli. Se lo decideranno avremo una possibilità di ripresa. È corretto dire che potremo parlare di ripresa vera e propria quando sarà ripartito anche il settore dell'edilizia in questo paese? Assolutamente. Perché? Sì, il settore dell'edilizia è cruciale e noi vediamo la ripresa del settore in 5 stadi, che cominciano con la rianimazione del mercato immobiliare delle abitazioni che già ci sono, e questo cominciamo a vederlo. Gli agenti immobiliari dicono che il loro giro d'affari è aumentato. Dopodiché abbiamo le banche che sono più propense e hanno più risorse da dare alle famiglie per i mutui, e qui qualche segno si comincia a vedere, non sono ancora però molto forti. Di lì si passa al credito alle imprese che costruiscono, e la quinta fase è che durante la costruzione viene rivitalizzato una serie di settori che sono tutti gli infissi, tutti i materiali, tutto quello che sta dentro una casa. Per fare questo noi stimiamo che ci vedremo i primi segni in primavera, e tutto il 2016 dovrebbe essere la preparazione con i cantieri che lentamente ripartono, se succede. Questa è appunto la vera ripresa. Se invece non dovesse succedere, ricadiamo e siamo di nuovo a punto zero. Sempre in tema di ripresa o rimbalzo, io volevo chiedere che cosa pensi. Adesso veniamo anche ai rischi presentati e presenti nel vostro rapporto, i rischi di che cosa potrebbe andare storto. Voi le chiamate ferite strutturali nel caso dell'Italia, però prima di tutto restiamo sul presente. La variabile terrorismo, c'è chi chiama variabile guerra, un po' diverso, ma la variabile terrorismo, dopo quello che è successo a Parigi e in questo fine settimana anche a Bruxelles, per quanto meno grave dal punto di vista delle vittime, ma sicuramente non meno grave dal punto di vista del panico, della preoccupazione, è una variabile anche economica o tenderà a restare una variabile soprattutto politica, di geopolitica, ma politica in senso stretto? Ma una risposta non siamo in grado di darla. Possiamo dire questo, che se le cose si fermano qui, e cioè non ci sono altri gravi atti di terrorismo, c'è qualche vittoria, qualche rete che viene smascherata, e allora tutto si riassorbe nel giro di altri 15 giorni, poi ci sarà un futuro un po' incerto, ma sostanzialmente non dovrebbe toccare la domanda né nel periodo natalizio né nel post natalizio. Se invece non siamo capaci di fare questo, se dopo 3 giorni di Bruxelles chiusa non si prende nessuno di importante, le difficoltà tendono ad aumentare, allora no, allora in quel caso questo pone un'ipoteca importante su qualunque... Ma su che cosa? Sulla fiducia? Cioè, dov'è che dovrebbe... Cioè, io posso dire, è chiaro che è un problema di sicurezza nazionale, di sicurezza europea, di controllo del territorio per quello che riguarda Iraq e Siria, ma dal punto di vista degli investimenti, dei consumi, dov'è che potrebbe minare o intaccare questo? Mina proprio nel momento finale, cioè nel momento in cui il consumatore si avvicina ai beni, cioè quindi non va più nei centri commerciali, che sono ancora, sì, può comprare su internet, ma il grosso della spesa si fa lì, quindi rimanda per paura. Non va più poi il settore classico che viene colpito da questo, il turismo, devo dire che in questa estate passata un po' ci ha favorito, perché certo, la Tunisia è stata scartata, le destinazioni del Mar Rosso incidono meno, questa cosa che la ruota gira potrebbe anche colpirci in maniera negativa, però se invece riprendiamo un minimo di controllo, le autorità sono in grado di dare una ragionevole fiducia, io penso che la cosa andrà avanti. Allora veniamo invece, torniamo al vostro rapporto, e quindi voi dite attenzione, l'Italia potrebbe arrivare a crescere in maniera ragionevole tra l'1,5 e il 2% del PIL, se tu crescessi tra l'1,5 e il 2% del PIL, siccome, come spieghiamo sempre, quello che interessa nel deficit e nel debito non è il valore assoluto ma è il rapporto, quello che a scuola si chiamava fratto, ed è deficit fratto PIL, deficit debito fratto PIL, se aumenta il denominatore il rapporto complessivamente si riduce. Esatto. E quindi tu potresti stare, potresti stare sotto il 3% o al 2% di deficit o ridurre il tuo debito anche spendendo uguale, perché nel frattempo aumenta il PIL, il denominatore, e il rapporto si riduce. Esattamente così. Quindi in questo noi abbiamo diciamo la speranza e anche i limiti di questa speranza. Ecco, vediamo. Quindi, che cosa potrebbe... Allora, lei dice, ci sono tutte le condizioni, perché se la domanda interna riparte, ed è un po' ripetere, noi si possa crescere tra l'1,5 e il 2%. Che cosa potrebbe andare sotto? O meglio, le ferite strutturali, quello che potrebbe, diciamo, limitare questa ripresa? Ma quella che noi vediamo come principale ferita strutturale è il Mezzogiorno, con l'avvertenza che non bisogna fare di ogni erba un fascio, che anche nel Sud ci sono delle realtà molto buone, rimane il fatto che andando a fare la radiografia degli ultimi 10 anni il distacco che ha accumulato il Mezzogiorno è spaventoso. Spaventoso in termini di posti di lavoro persi, spaventoso in termini di famiglie, insomma su 280.000 famiglie italiane che sono entrate in povertà, 200.000 sono nel Mezzogiorno. Se noi togliamo il Mezzogiorno dalle statistiche nazionali, il resto d'Italia è più o meno a livelli francesi, tedeschi, e questo non può durare a lungo, quindi qui bisogna ripartire, e diciamo, il combustibile per ripartire, il primo combustibile sono i fondi europei, che rischiamo di perdere se non facciamo subito qualcosa, e dietro ai fondi europei ci deve essere un altro modo di funzionare delle amministrazioni locali, a partire dai rifiuti per andare avanti a tutta l'efficienza o la poca efficienza dei servizi pubblici locali in genere. Sì, devo dire che i dati che anche voi presentate oggi come dati sintetici sono impressionanti, con un Mezzogiorno in cui la capacità produttiva dell'industria è calata del 32,5%, ha perso il doppio degli occupati il Sud rispetto al Nord, 575.000 contro 235.000. Voi citate, per concludere, professor De Aglio, però altre due ferite strutturali, se ho ben capito, le sofferenze bancarie e lo scivolamento sociale. Che cosa vuol dire sia sul fronte sofferenze che scivolamento sociale? Sul fronte sofferenze vuol dire che della crisi è stata anche pagata dal fatto che i fallimenti delle imprese hanno voluto dire buchi nei bilanci delle banche. Questi buchi, questo, anche se non sono ancora magari ufficialmente dei buchi, ma sono soldi di difficile reperimento, sono molto alti e bisogna fare qualcosa perché l'attività bancaria non sia tirata a fondo da questi buchi. Anche se li possono sopportare oggi semplicemente riducendo il credito alle aziende sane, questo non va bene. Quindi l'idea di fare una, come si chiama, una bad bank, cioè una banca in cui si concentrano tutte le cose che non rendono, che non riescono a pagare, è stata già seguita da altri paesi con un certo successo, è una cosa che ci sembra estremamente importante. Sullo scivolamento sociale, questo è un fenomeno che riguarda in realtà tutto l'Occidente, i nostri dati sono molto vicini a quelli degli Stati Uniti, e cioè prima della crisi più di metà della popolazione si riconosceva come classe media, 51-52%, adesso siamo scesi al 39-40% e abbiamo una fascia sociale di giovani che hanno la prospettiva di non avanzare più, cioè di non crescere né professionalmente né con redditi come avevano fatto i loro padri. E questo può avere conseguenze anche di tipo di stabilità politica, eccetera, abbastanza imprevedibili. Eh sì, nel medio e lungo termine sulla struttura sociale. Grazie Mario De Aglio, appunto curatore del rapporto in audio, oltre che docente di economia internazionale all'Università di Torino. Da Sebastiano Barigioni è veramente tutto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto vi auguro comunque una buona serata. Radio 24. La passione si sente.